Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Chi di noi non ha desiderato da bambino di essere un supereroe, avere superpoteri? Chi non ha pensato di salvare il mondo, di correre in soccorso di persone in pericolo, mettere in fuga i banditi, diventare protagonista delle avventure vissute dagli eroi dei nostri fumetti preferiti? Oggi noi raccontiamo la storia di un uomo che da bambino sognava questo, diventare un supereroe, e da grande invece è diventato un cantante, chitarrista, frontman di band famose, un personaggio noto per decenni, che si è scelto come nome d'arte proprio quello di un supereroe, forse il suo preferito. Ma per ironia della sorte, quest'uomo non è diventato un supereroe, ma proprio il contrario. Non ha riportato l'ordine nella sua città, New York, ma è stato il fautore di un caos creativo, perché ha ispirato un furore sfociato in una vera e propria rivoluzione musicale, ma anche un caos dal punto di vista, come dire, tossicologico. Eh sì, perché il nostro protagonista di oggi è Johnny Thunders, cantante, chitarrista, compositore nei New York Dolls prima, negli Heartbreakers poi, protagonista della scena musicale degli anni 70 e 80, antieroe per eccellenza, emblema del politicamente scorretto, un rocker ribelle maledetto veramente, che sognava di salvare il mondo e alla fine non ha potuto salvare neanche se stesso. Il vero nome di Johnny Thunders è Johnny Anthony Genzale. Nasce il 15 luglio del 52 a New York, nel Queens, da una famiglia, come avete intuito, di italiani immigrati di seconda generazione, originari di Avellino, e lui vuole diventare un supereroe proprio perché cresce sulla strada nel cuore del Queens, che è un intricato alveare di palazzine dormitorio dove la povertà confina con la delinquenza e il crimine si impadronisce di un quartiere che è sempre ai confini del degrado. L'unica a scappare nel mondo della fantasia, e Johnny ha simpatia per uno dei personaggi della DC Comics, la casa editrice della Warner Bros., che a lui piace molto. Si chiama Johnny Thunder, forse perché si chiama Johnny come lui, forse perché è il più accessibile, il più normale, insomma diventa il suo eroe di bambino. E Johnny trascorre l'infanzia tra le pagine di quei giornalini, quei comics, cercando di rimuovere dalla mente le brutture che lo circondano, promettendo che da grande riporterà l'ordine nel regno del caos. Poi invece la vita lo mette di fronte a scelte molto diverse, e lui prenderà una direzione opposta a quella che aveva sognato, perché la famiglia si disgrega, il padre abbandona lui, la sorella e la madre, un evento che lo segnerà per tutta la vita, e così lui comincia a diventare un ribelle, la scuola lo allontana, si trova a crescere in strada dove la sopravvivenza non è semplice, comincia a suonare il basso forse a 11-12 anni. A 15 anni, prima performance a scuola con un gruppo chiamato Johnny the Jaywalkers. Lui ha predisposizione prima al basso e poi alla chitarra, è bravo, non va a lezione da maestri, non se lo può permettere, non ha neanche quell'atteggiamento mentale, è un autodidatta, però è formidabile. In poco tempo diventerà un artista straordinario. Ascoltate il ricordo di Arthur Kane, che suonerà con Johnny Thunders in molte band. Arrivai allo studio dove avremmo dovuto provare insieme per la prima volta. Sentii qualcuno suonare la chitarra. Non lo vedevo, lo sentivo solo e pensai: non saprei assolutamente suonare in quel modo. Era volgare, fastidioso, ruvido e soprattutto selvaggio. Ne fui immediatamente e per sempre ispirato. Il suo suono era ricco e grasso e bellissimo, come una voce umana. Johnny intanto ha trovato lavoro come commesso in una pelletteria, ma appena può frequenta il giro delle band che suonano nella zona del West Village, e a vederlo è un personaggio, perché lui è andato al concerto dei Rolling Stones, al Madison Square Garden, e si è innamorato dei Rolling Stones, la sorella gli ha acconciato i capelli come Keith Richards, insomma questo è il suo mondo, quella è la sua strada, lo sente, vuole mettere su una band, e quando incontra Arthur Kane e Rick Rivers, i tre danno vita a un gruppo, si chiamano Actress, già al femminile, le attrici. E il destino però è in serbo di qualcosa di straordinario per questi ragazzi, perché trova degli altri musicisti. Il chitarrista si chiama Sylvain Sylvain, il batterista Billy Murcia, e poi c'è un cantante che farà parlare molto di sé, si chiama David Johansen. Gli Actress si trasformano in un'altra band che per il nome si ispira a un negozio di riparazione di bambole chiamato New York Doll Hospital. Nasce quella che è destinata a essere una delle formazioni più importanti, più influenti dell'epoca, i padri del glam rock, ma soprattutto del punk, insieme agli Stooges. Sto parlando dei New York Dolls. Il falco e il gabbiano. I New York Dolls si formano alla fine del 1971, la prima esibizione arriva alla vigilia di Natale in un ospizio per senza tetto chiamato Endicott Hotel, e anche questa scelta di location, insomma, la dice già lunga sulla loro personalità, lontane dalle solite logiche di promozione. E infatti loro proseguiranno a esibirsi nei club più equivoci di New York, e proprio grazie a loro inizieranno a attirare in quelle sale fumose e malfamate un nuovo tipo di pubblico. All'inizio loro copiano, accentuano il look, le sonorità dei Rolling Stones, poi passano alla fase più spinta. Hanno un look pazzesco, travestiti depravati, parrucche, trucco pesante, zeppe, rossetti sbavati, occhi bistrati, piume di struzzo, insomma delle drag queen tossiche, qualcosa che non si era mai visto prima. E il loro sound è veramente innovativo, è qualcosa di mai sentito prima. E se voi volete vedere chi sono veramente i padri del punk, ascoltatevi il primo album dei New York Dolls, perché già c'è musica molto veloce, senza soli di chitarra, e sono già punk 4 anni prima del punk, e stanno agendo nella New York orfana dei Velvet Underground, degli Stooges, e quindi mancava lì un gruppo che segnasse la strada. E loro hanno molto da dire, hanno tutti un background difficile, quindi con canzoni che non hanno testi superficiali, anzi, e poi c'è il loro look, insomma, loro che sembrano esteriorità e non interiorità, invece non sono così, ma c'è una ragione storica precisa. Ascoltiamo Nina Antonia, esperta di musica degli anni 70, biografa ufficiale di Johnny Thunders, al quale ha dedicato il libro In Cold Blood. Well, I think what we forget now is that... Quello che tendiamo a dimenticare oggi è che alla fine degli anni 60 e inizio anni 70, il look era altrettanto importante delle capacità musicali. Intendo dire, guardate ad esempio il look di Jimi Hendrix. I musicisti a quel tempo erano dei dandy, i dandy di quell'epoca. E Johnny era sempre stupendo. Aveva un'immagine straordinaria. La sua fidanzata dell'epoca era una stilista e lo vestiva in un modo incredibile. Poi erano tempi di sperimentazione. Il tuo look esprimeva te stesso, era la cultura della strada, e New York di quel periodo era un luogo affascinante. La scena post-Warhol, lo stile era tutto. E i New York Dolls cominciano a essere seguiti con interesse dall'industria musicale, fanno un bel colpo quando Rod Stewart li chiama a aprire un concerto a Londra nell'ottobre del 72, c'è un mini tour e i Dolls stanno suonando in Inghilterra, ma subiscono un lutto terribile. Il batterista Billy Murcia viene trovato morto, annegato nella vasca da bagno, dopo aver perso conoscenza per l'assunzione di alcol e di droga. Billy aveva solo 21 anni, per i ragazzi è un colpo durissimo. Le date del tour vengono annullate, il gruppo rientra a New York devastato dalla perdita del loro amico. Beh, però, si sa, la vita deve andare avanti, così i New York Dolls devono cercare un batterista. Prima provinano Mark Bell, che poi invece entrerà a far parte dei Ramones, quindi con nome Marky Ramone, e poi scelgono Jerry Nolan, amico di alcuni membri del gruppo, e Nolan diventa uno degli elementi chiave dei New York Dolls. Collaborerà per tutta la vita con Johnny Thunders. E intanto la band firma un contratto con la Mercury Record e iniziano le registrazioni dell'album di debutto, album che si chiamerà New York Dolls. Esce nel 73, non ha un particolare successo, viene snobbato dalla stampa musicale, poi a posteriori invece è l'album fondamentale per la storia del rock e soprattutto per il passaggio dal rock heavy al punk. E in questo album, per esempio, c'è una canzone che si chiama Looking for a Kiss, che è stata scritta da Johnny Thunders assieme al cantante David Johansen. E quella canzone, peraltro, ispirerà i Kiss, che erano amici dei New York Dolls, a scegliere proprio Kiss come nome della band. Naturalmente le reazioni del pubblico sono discordanti e i New York Dolls o piacciono moltissimo o non piacciono affatto, non lasciano indifferenti, e la verità è che loro sono troppo avanti e verranno capiti solo anni dopo. E in Europa vale lo stesso discorso, vengono definiti dei cloni dei Rolling Stones, invece erano veramente un'altra cosa. Intanto arriviamo al 74, esce il secondo album che si chiama Too Much Too Soon, troppo e troppo presto. È la sintesi della produzione musicale, del look del gruppo, è troppo avanti rispetto ai suoi tempi. Essere dei precursori paga raramente, almeno nel breve. Anche questo secondo album ha poco successo, la Mercury licenzia la band e arrivano le difficoltà, peraltro difficoltà anche tra i membri della band, anche grazie all'uso smodato di alcol, di droghe, insomma il gruppo è sull'orlo della disgregazione. In un ultimo tentativo di salvare la situazione arriva come manager Malcolm McLaren, marito della stilista Vivienne Westwood, soprattutto quello che sarà poi il famosissimo manager dei Sex Pistols. E Malcolm McLaren rinnova il look alla band, fa indossare vestiti di pelle fetish di colore rosso, li fa esibire sul palco con una bandiera comunista, con la falce e il martello che campeggia sullo sfondo, insomma li trasforma da drag queen a comunisti perversi e tossici. È una mossa provocatrice, e lo scopo è quello di rilanciare la band. La trovata non piace, non ha successo. Dopo 5 concerti i New York Dolls si sciolgono, Johnny Thunders e Jerry Nolan lasciano il gruppo, gli altri proseguono per un paio d'anni, ma nel 77 i New York Dolls terminano definitivamente di esistere. Si conclude un'era, però se ne sta per aprire un'altra. Ascoltiamo intanto ancora Nina Antonia dalla biografia di Johnny Thunders. I Dolls hanno influenzato moltissimo chi è venuto dopo. Voglio dire, i Kiss si sono chiamati Kiss per via della canzone dei Dolls Looking for a Kiss. I Kiss erano molto bravi, si erano inventati un look da cartoni animati, erano dei bei personaggi, ma le loro canzoni avevano dei testi molto molto semplici. Non c'era la sfida nel loro modo di essere come c'era nei Dolls, il loro essere tanto sofisticati come concetti. E gli Aerosmith, gli Aerosmith erano divertenti, ma in fondo erano solo una blues band. Hanno imitato l'aspetto androgino dei Dolls, ma l'hanno fatto in maniera più regolare. David Bowie, lui era uno che tirava fuori le cose, era capace di trasformarle e portarle in superficie. E lui ha preso alcuni elementi dai Dolls dopo averli visti. Per esempio, andò dallo stesso artigiano che faceva le scarpe per i Dolls. È una cosa molto divertente questa. Così nel 75 Johnny Thunders, in compagnia dell'amico Jerry Nolan, si avvia verso una nuova straordinaria avventura che lo vedrà protagonista di una incredibile stagione musicale con il suo nuovo gruppo, i Heartbreakers. Il falco e il gabbiano. Il nostro protagonista di oggi è il grande John Anthony Genzale, e in realtà è Johnny Thunders, una delle figure più influenti della scena rock degli anni 70 e 80, cantante, chitarrista, compositore di grande talento, anello di congiunzione tra il rock, diciamo, decadente del periodo newyorkese e quello dei New York Dolls, e poi con il punk, con gli Heartbreakers, e poi ha fatto anche dischi da solo, però si è guadagnato la reputazione di eroe maledetto del rock per performance straordinarie alternate a eccessi con l'alcol, con le droghe. La fine arriverà perentoria a soli 39 anni. Un ragazzino che aveva il sogno di diventare un supereroe, che invece è stato l'antieroe per eccellenza, ma è stato soprattutto un grande innovatore, uno di quelli che hanno influenzato tutti quelli che sono arrivati dopo. E nel nostro racconto siamo arrivati al 75, le New York Dolls si sono appena sciolte, troppo avanti rispetto al loro tempo, e non hanno avuto grande successo, né avranno nella storia. Johnny Thunders però non si dà per vinto e dà vita a un'altra grande realtà destinata ad avere un ruolo importantissimo nell'evoluzione del rock, insieme all'amico batterista Jerry Nolan e insieme al bassista Richard L. Meyers, che arriva dai Television, dà vita agli Heartbreakers. Poi arriva un altro chitarrista, Walter Lure, il gioco è fatto, i quattro sono una nuova macchina da guerra pronta a conquistare il pubblico. Sembrerebbero maturi i tempi, ma non lo sono ancora abbastanza. Anche gli Heartbreakers sono un po' troppo avanti, e in realtà è lui che è troppo avanti sempre, perché Johnny Thunders è stato un precursore. E intanto la band ha una vita difficile, anche perché tutti hanno una reputazione di tossicodipendenti, insomma le case discografiche si tengono alla larga da loro e loro non riescono a trovare uno che li produca. Poi alla fine del 76 rispunta fuori Malcolm McLaren, sempre lui, che invita la band ad andare in Inghilterra per partecipare all'Anarchy Tour dei Sex Pistols insieme ai Clash, ai Damned. E intanto Richard Dale se n'è andato, ha dato vita a una formazione anche questa storica, Richard L. and Voitzoi. Dal suo posto arriva un nuovo bassista che si chiama Billy Reth. Gli Heartbreakers partono alla volta della Gran Bretagna, un paese forse più pronto a accoglierli di quanto non siano stati gli Stati Uniti. Ci sono dei concerti a Londra, la Track Record offre agli Heartbreakers il tanto sospirato contratto discografico. Beh, e poi i contatti con le altre band del nascente punk inglese fanno sì che gli Heartbreakers, oltre a esportare un suono, esportano anche l'eroina, perché l'eroina entra nel punk, che fino a quel momento era stato caratterizzato da droghe speed, anfetamine e cocaina, entra nel punk con Johnny Thunders, questo va detto. E intanto si registra il primo album, un album mitico, oggi catalogato come un classico. Il titolo dell'album è un titolo già provocatorio, LAMF, cioè Like a Motherfucker, e Johnny Thunders, a proposito di questa scelta, dichiarerà questo: ci siamo ispirati ai graffiti delle gang di New York. Loro scrivono sempre sui muri la tag LAMF dopo il nome della loro banda. Delimitano così il loro territorio e avvertono eventuali intrusi che si stanno addentrando in un terreno pericoloso. LAMF ha una genesi sofferta, conseguenze devastanti per la band, le operazioni di missaggio sono problematiche, i componenti sono scontenti, il suono è confuso, è un po' approssimativo, ogni membro prepara una versione provvisoria, tutte vengono scartate, c'è indecisione generale, il mix diventa lungo, difficoltoso, si protrae fino all'estate del 77, il disco viene pubblicato il 7 ottobre. E nonostante tutte le problematiche, però LAMF ha i paradigmi di un album epocale, perché è un rock and roll al fulmicotone, cioè un album che vi straconsiglio, sono con frasi che sembrano scritte apposta per rimanere stampate nella mente. Poi un singolo che sia a livello di testo che a livello musicale è il vero e proprio inno della generazione punk, Born to Lose. LAMF viene accolto in maniera entusiastica dalla critica, il grande pubblico ovviamente non può capirlo, però insomma c'è una qualità sonora complessiva scadente. Jerry Nolan dice che lascerà il gruppo se l'album non uscirà con un mix decente. Partono i primi concerti e tra l'altro gli Heartbreakers arrivano in Italia, i Decibel fanno da supporter agli Heartbreakers allo Sporting Club di Santiago, loro arrivano e se ne vanno perché non erano in condizione di suonare. Quindi io non posso dire di aver suonato o di aver conosciuto gli Heartbreakers, posso solo dire di averli intravisti mentre portavano via due o tre persone a braccia. Intanto Jerry Nolan torna negli Stati Uniti, viene sostituito prima da Paul Cook, il batterista di Sex Pistols, poi da Terry Chimes dei Clash. Insomma, gli Heartbreakers fanno gola, perché all'interno del punk l'idea è che gli Heartbreakers possono dare molto. Poi escono degli album live e poi Johnny Johnny Thunders inizia una carriera solista, perché gli Heartbreakers non riescono più a rimanere assieme. Nel 78 esce un album strepitoso, disseminato di canzoni che diventeranno dei classici. È un album più intimo, sofferto, e Johnny si abbandona alle lacrime, insomma, si lecca le ferite, conta veramente i buchi nel cuore. Ci sono dei capolavori come Leave Me Alone, Great Big Kiss e poi la bellissima You Can't Put Your Arm Around a Memory, non puoi abbracciare un ricordo. E poi escono In Cold Blood, Diary of a Lover, Heart Me, Che Sera Sera, Copycats, insomma molti album che hanno contribuito alla evoluzione della musica rock come la conosciamo oggi, ma sono sempre album troppo avanti. Johnny Thunders deve subire la stessa sorte che subiscono molti precursori: non viene capito, non vende, affonda nel baratro, continua a realizzare album, fa concerti, tour, però il grande successo, quello che lui in un mondo giusto avrebbe meritato, il grande successo non arriverà mai. Lui sprofonda nell'alcol, nella droga, è un vortice che lo porta dritto nel centro dell'inferno, in una delle tante città dove si esibisce, che però è la quintessenza simbolica della musica, New Orleans. La vita di Johnny Thunders scivola nel buio dal quale non si torna. 23 aprile 1991, nella camera 37 del St. Peter's House Hotel del quartiere francese di New Orleans, e Johnny Thunders viene trovato cadavere. A fianco a questo hotel abita un'altra leggenda di cui abbiamo parlato, il grande Willie DeVille, che racconta così, in un rarissimo reperto, quel momento terribile. Io e il mio amico Chuck ce ne stavamo seduti proprio là vicino. E ad un certo punto è arrivata la polizia, che è entrata di corsa nell'hotel. E abbiamo pensato, ma deve essere morto qualche politico, che magari è andato là con una donna ed è morto proprio sul più bello. Di un colpo di cuore. Stavamo ridendo quando tutto ad un tratto sono usciti con uno di quei contenitori di plastica per cadaveri e ho pensato, ma deve essere morto di una morte orribile, perché era piegato a U, una cosa tristissima. Poi è uscito il padrone dell'hotel e mi ha chiesto, ma tu mi hai mandato qualcuno all'hotel, perché tu sei di New York e il morto pure. Io ogni tanto ci mando qualcuno a quell'hotel perché è proprio sotto casa mia. Manager, musicisti. Allora mi chiede se gli avevo mandato qualcuno. Dico no, ma perché? Mi fa, è una rockstar di New York. Il suo nome è Johnny Thunders. His name is Johnny Thunders. E beh, io qui ho la pelle d'oca per sentire Willie DeVille che racconta della morte di Johnny Thunders. Insomma, per me è troppo. Johnny Thunders muore, la sua morte si avvolge di mistero, la sentenza più scontata è overdose, però la sua biografa Nina Antonia testimonierà che la quantità di droga non era assolutamente sufficiente a ucciderlo, e Didi Ramone dirà che Johnny era entrato in contatto con gente poco raccomandabile che lo avrebbe ucciso per rubargli la grande quantità di metadone che era in suo possesso. Pamela Desbars, ve la ricordate, la groupie a cui abbiamo dedicato una puntata, riesce a intervistare la sorella di Johnny Thunders, Marian, e lei dice che Johnny Thunders soffriva di una grave forma di leucemia. Insomma, la verità è custodita per sempre nel cuore di Johnny Thunders, il bambino che voleva sconfiggere il crimine e che nella sua strada ha trovato qualcosa di più difficile da combattere di un cattivo dei cartoon. Ha trovato fantasmi, paure, e ha trovato una carriera nella quale lui è sempre stato precursore, sempre arrivato prima degli altri, forse troppo prima degli altri, e il grande pubblico, che notoriamente insomma non è particolarmente perspicace, il grande pubblico soprattutto americano, non l'ha capito. A noi rimane una grandiosa eredità musicale che lo ha fatto, almeno per molti di noi, il supereroe che lui avrebbe voluto essere.